Capitolo 5. A questo livello di sfruttamento delle nostre risorse, le statistiche ci dicono che abbiamo ancora una decina d'anni prima di conoscere una grave carestia. La produzione di proteine sintetiche dalla materia inorganica non ha risolto il problema, perché il processo richiede enormi quantità di energia, in misura molto maggiore alle nostre disponibilità. La necessità della colonizzazione, quindi, si ripropone. Possiamo affrontarla con la forza oppure cercando l'amicizia con altri popoli. Uno stridore metallico strappa Danny al sonno. Il treno entra in stazione. Dal portabagagli cade una valigia con un botto che pare uno sparo. Un passeggero impreca. Poi l'intero vagone si mette a recuperare borse, valigie, zaini militari, pacchi, gabbie, tappeti arrotolati. I passeggeri formano nel corridoio una fila composta e al tempo stesso caotica, come se ognuno contenesse la smania di uscire con la consapevolezza che quello è il modo più rapido per farlo. Danny resta seduta ad ammirare tanta disciplina, quindi si accomoda all'ultimo della fila. Quando spunta sul predellino, l'aria della stazione le inonda le narici. Tossisce, lottando contro un giramento di testa. Qualcuno la prende sotto braccio e l'aiuta a scendere gli scalini. Un uomo alto e calvo, con un cappotto scuro e risvolti delle maniche di pelliccia bianca. «Grazie!» «Di niente, compagno!» La ragazza si tuffa nell'andirivieni del binario, passando leggera in mezzo alle persone che salgono e scendono dai convogli, salutano, abbracciano, si passano cibo e pacchi attraverso i finestrini. Nell'atrio, uomini lavorano alla base di un'impalcatura, in cima alla quale si erge una targa indecifrabile. Grandi porte a vetri proiettano Danny in faccia alla città, in un labirinto di automezzi e carrozze in sosta. Da un camion, che trasporta operai stipati in piedi sul cassone, sgorga un fumo nero. Il puzzo acre si mescola con uno dolciastro, che sale dallo sterco dei cavalli. Un altro odore, portato dalla brezza, attira la nuova arrivata verso una strada di palazzi alti, gialli e marroni, percorsa da gente che cammina spedita. Segue l'indizio fin dove la città si schiude e l'acqua finalmente compare alla vista. Una gradinata scende alla piattaforma che costeggia il fiume. Grande, appena increspato dalla brezza, si porta via barche, tronchi e pensieri. Danny raccoglie un sasso e lo getta oltre la banchina. Ne segue la traiettoria sotto il pelo dell'acqua. Lo stesso con un filo d'erba che osserva scivolare via. «Seguite il fiume controcorrente», le ha detto il capotreno, la fonte più autorevole che le è capitata a Tiro. «Dove andresti? Se dovessi rintracciare una persona, sapendo soltanto che era un rivoluzionario di San Pietroburgo?» La risposta del ferroviere, un tipo gioviale e rubicondo, non si è fatta attendere. Fosse per lui, comincerebbe dalla sede del partito. «Lì hanno gli elenchi di tutti gli iscritti, e magari anche dei non iscritti», ha aggiunto, sghignazzando. Danny percorre la banchina fino al primo ponte, lo imbocca e si ferma nel mezzo, osservando le barche piatte che incrociano sul fiume. Ancora odore acre di combustibili fossili. Grandi uccelli bianchi volteggiano sui battelli, lanciando richiami striduli ai marinai. Affascinata dai loro litigi, Danny si accorge di un altro volatile solo quando le passa sopra la testa, le ali enormi e dispiegate. Solca il cielo spinto da un'elica molto rumorosa, ben più veloce dei traghetti sotto di lui, fino a perdersi contro uno sfondo di nubi bianche. La ragazza guadagna la sponda opposta e cammina in senso contrario alla corrente. Segue tutta l'ansa finché tre croci dorate spuntano sopra una fascia d'alberi, in cima ad altrettante guglie biancazzurre. Come ha detto il capotreno. Procede ancora. Sull'altro lato della strada si stende una lunga cancellata, interrotta da due casupole. Dando le spalle al fiume, Danny cerca di cogliere i contorni dell'edificio che si intravede nel parco. Un uomo di mezza età le passa vicino, spingendo un carretto carico di pentole. «Buongiorno. Sai dirmi se quello è l'istituto Smolny?» chiede, indicando il palazzo. L'uomo la scruta, stranito. «Forestiero, eh? Certo, è quello. Ma da qui non vi fanno entrare. Dovete girarci attorno». Fa per proseguire, ma Danny lo interpella ancora. «Scusami!» Quello solleva la visiera del cappello di panno blu e si asciuga il sudore, rassegnato alla pausa in attesa e nemmeno troppo scontento. «È lì che sta il partito?» L'uomo ride. «Mi prendete in giro?» Ma poi si accorge che Danny è curiosa davvero. «Certo che è la sede del partito. Lenin ci ha abitato durante la rivoluzione». Danny ringrazia e parte di buon passo, costeggiando il parco fino all'ingresso principale. L'edificio riempie la vista, con le due ali che si proiettano in avanti. Al centro, la facciata è scandita da due ordini di 8 colonne. Quelle in basso, tozze e squadrate, sostengono quelle superiori, bianche e snelle, che a loro volta reggono un gigantesco triangolo. L'intera struttura consente a una bandiera rossa, piazzata sul vertice superiore, di sventolare più alta di qualunque palazzo nei dintorni. La ragazza avanza verso una delle casupole al cancello, davanti alla quale attende una fila di persone. Ci vuole tempo perché la coda si smaltisca, e quando arriva il suo turno, Danny se ne ritrova dietro altrettanta. Il soldato di piantone le chiede i documenti. Danny mostra il libretto di lavoro e il foglio con la data di nascita di Liev. «Cosa vi porta qui, compagno Koldomazov?» «Cerco una persona. Mi han detto che là dentro mi possono aiutare». Il soldato fa segno di procedere. «Se non possono loro, non può nessuno». Danny aggira la guardiola e infila il viale, ascoltando il rumore delle suole sulla ghiaia. Persone vanno e vengono, da sole o in gruppo, con le andature più diverse. In una aiuola, di fronte all'edificio, si erge un pilastro massiccio. Ha l'aria di essere il basamento per una statua, ma la sommità è vuota. La facciata sembra sul punto di prendere vita, un enorme animale pronto a schiacciare i passanti sotto le zampe. Danny varca l'ingresso e si trova in un'ampia sala, dominata da una fila di banchi, dietro i quali i funzionari, in prevalenza donne, ricevono le persone. Sopra le loro teste incombono grandi lampadari di cristallo, ma uno soltanto è acceso, insufficiente per illuminare l'intero spazio. Due bandiere rosse incrociate pendono inerti sulla parete di fondo. Danny attende il proprio turno. Controlla lo scorrere del tempo su un orologio incorniciato. La lancetta più lunga fa uno scatto. 2. Ce ne vorranno di sicuro molti altri. Ne approfitta per sbonconcellare il pane avanzato dal pranzo. La sala è piena di individui di ogni tipo. Danny si concentra sulle differenze. Occhi rotondi o allungati, pelle molto chiara oppure olivastra, capelli lisci e capelli ricci, grandi barbe e guance glabre. Un'anziana donna passa tra le file distribuendo piccole tazze, che riempie dal rubinetto di un grande recipiente montato su ruote. Danny accetta l'offerta, assaggia un sorso con prudenza. La bevanda ha un aroma intenso e benché sia calda rinfresca la bocca. Davvero buona. Quando finalmente può avvicinarsi a uno dei banchi, va incontro a una giovane donna dall'aria stanca, i capelli corti e ondulati. Indossa una camicetta candida a motivi floreali, fra i quali risalta una spilla rossa con una falce e martello e i numeri 1917-1927. «Puoi aiutarmi a rintracciare una persona?» L'impiegata conserva la sua espressione neutra. «Questa persona è iscritta al partito a Leningrado?» «Non lo so. Viveva qui. So che era un rivoluzionario, un delegato al Soviet». «In quale periodo?» Danny esita, incerta. «Non capisco». «In quale periodo svolgeva la sua attività politica?» domanda la donna, impugnando una stilografica. «Circa 20 anni fa». L'impiegata sospira, sconsolata. «Rivolgetevi all'archivio», taglia corto, indicando il fondo della sala. «Terza porta a sinistra nel corridoio. Bussate senza entrare. Vi apriranno loro». Danny attraversa la stanza, intimorita dai giganteschi lampadari che le incombono sulla testa. Imbocca il corridoio e conta le porte. Si ferma davanti alla terza e bussa. Quindi si accomoda su una delle poche sedie disposte contro il muro. Seduta davanti a un'altra porta, un'anziana con un grande fazzoletto in capo la scruta con occhi porcini. Poco oltre, una donna giovane culla un bambino che le dorme in grembo, con la testa reclinata e la bocca aperta. D'un tratto, una voce maschile. «Avanti!» Danny entra con timidezza in uno stanzino vuoto. L'uomo deve essere scomparso dietro la seconda porta, che si apre sulla parete laterale e dalla quale giunge un ticchettio meccanico. Danny si avvicina e resta in attesa, il viso a pochi centimetri dalla superficie liscia di legno scuro. Fa per bussare, ma al primo tocco la porta si apre. Un uomo siede a una scrivania, intento a battere sui tasti di una macchina di metallo bruno. Una faccia tonda, occhiali e sopracciglia folte. «Chi vi ha detto di entrare?» «Ho sentito dire avanti!» «Certo, nell'anticamera!» ribatte il funzionario. «Questo è l'ufficio!» Danny punta il pollice oltre la spalla destra. «Ci sono soltanto io!» Il funzionario allunga il collo per addocchiare lo stanzino dietro di lei. «D'accordo, d'accordo!» Le indica una sedia, che Danny occupa solo sul bordo, la schiena rigida. «Qual è la richiesta?» domanda il funzionario. «Sto cercando una persona. Nome e cognome di questa persona?» «Leonid Voloch, con la H in fondo.» L'uomo annota il nome. «Patronimico?» domanda. Danny rimane zitta. Il funzionario sbuffa. «È un iscritto al Partito Comunista Russo o svolge qualche incarico per il partito?» Danny riflette su quelle parole. «So che era un delegato al Soviet di San Pietroburgo.» «Motivo della richiesta?» domanda l'impiegato. «È un mio parente.» «Da quanto non avete più notizie di questo?» consulta il foglio Voloch. Danny decide di essere sincera. 20 anni. Il funzionario osserva bene la ragazza, valutando quanti anni possa avere. «Accomodatevi», dice, indicando lo stanzino. La ragazza obbedisce. Il funzionario esce nel corridoio dove Danny, sporgendo fuori la testa, lo osserva percorrere la guida rossa fino in fondo, passando davanti all'anziana ancora seduta e alla donna con il bambino. L'uomo scompare nei meandri del palazzo e si ripresenta dopo 10 minuti, senza dire una parola. Torna nell'ufficio e Danny attende nell'angusta anticamera che le venga concesso di rientrare. Dopo alcuni minuti, la voce del funzionario filtra ancora attraverso la porta socchiusa. Danny si fa avanti. «La persona che cercate è stata un delegato del Soviet di San Pietroburgo nel 1905, iscritto al Partito Operaio Socialdemocratico Russo fino al 1911. L'uomo fa scivolare un foglietto da un capo all'altro della scrivania. «Ecco l'ultimo indirizzo in archivio. Non penso vi possa essere utile, ma questo è quanto. Buona giornata.» L'uomo torna a concentrarsi sulla macchina che ha di fronte, ma la ragazza non accenna a togliere il disturbo. «Qualche problema?» domanda il funzionario, senza smettere di aggredire i tasti. «Questa via e questo numero.» Danny scruta l'indirizzo. «Tu sai dove sono?» «Certo, non qui nel mio ufficio.» La risposta sgarbata non serve a sloggiare l'intrusa. L'uomo allora si sfila gli occhiali e stende un braccio verso la porta. «Qua fuori, sulla strada, fermate una carrozza e chiedete al cocchiere di portarvi, oppure aspettate il tram e sentite dal conducente se va in quella direzione. Di più non so dirvi.» Danny ringrazia, come di fronte a un'informazione preziosa, e alla buon'ora esce dalla stanza. Né carrozza né tram la porteranno a destinazione, dal momento che per entrambi è necessario pagare e gli spiccioli che le restano non bastano nemmeno per una corsa breve. Quanto alle indicazioni, autisti e vetturini non le sono di grande aiuto. Non per ignoranza o cattiva volontà, ma perché a dispetto di vari tentativi nessuno le illustra mai l'intero percorso. Si perdono tutti dopo le prime svolte e alla fine ripiegano su una tappa intermedia dove domandare suggerimenti. Danny allora si rivolge a un venditore di libri, confidando che un uomo di cultura, tra tante conoscenze, sappia indicare la strada a un forestiero. Fuori dal piccolo negozio, inchiodata su un pannello di legno, c'è una stampa che mostra la Russia, così come la si vede dallo spazio, però isolata, senza gli altri paesi attorno, con le città rappresentate da cerchietti neri. «Unione Sovietica, un sesto del mondo», dice la scritta che sovrasta l'immagine. E benché il motto suoni misterioso, la vista della mappa rincuora Danny. L'uomo che vende un simile oggetto deve essere un esperto del paese, e se sa dove si trovano luoghi remoti come Vladivostok, a maggior ragione sarà pratico delle strade della sua città. Infatti, non appena Danny gli mostra l'indirizzo sul biglietto, l'uomo si propone di tracciarle un disegno che l'aiuti a raggiungerlo. Purtroppo il risultato è molto deludente. Il disegno non riproduce le vie, i muri delle case, i portoni e le insegne, ma la città è ritratta dall'alto, con cerchi e linee al posto di piazze e strade. Usare quell'intrico per orientarsi si rivela molto difficile, nonostante il libraio investa nella spiegazione tutta la sua pazienza. Così, il viaggio di Danny è molto più lungo del previsto. «Ci vorrà mezz'ora», le hanno detto, appena uscita dall'istituto Smolny, ma trascorso quel tempo si trova ancora a metà del tragitto. Inoltre, mille dettagli la rallentano e catturano la sua attenzione. Fuori da alcuni negozi di pane si snodano file di clienti, mentre altri non ne hanno nemmeno uno. Mercanti di strada vendono biglietti per la lotteria di Stato, uno strano gioco dove si vince senza giocare. Le fermate dei tram, con quei manifesti sulle vetrate, rallentano di molto le ricerche di Danny, che si mette a decifrare le scritte, oppure ascolta rapita i commenti di chi legge. Mentre si sforza di sovrapporre il disegno del libraio all'incrocio che ha di fronte, un'automobile le sfreccia davanti e dal finestrino aperto prende il volo un nugolo di fogli. Imitando i passanti, Danny ne raccoglie uno. «Il gruppo di Stalin», c'è scritto, «guida il paese con il paraocchi, creando una parvenza di successo». Vorrebbe leggere oltre, ma un uomo le strappa il foglio. «Ridammelo!» protesta lei, ma lascia perdere in fretta. Il tizio non è solo e insieme ai suoi compagni straccia tutti i fogli volanti che gli capitano a tiro. Alle rimostranze di chi vorrebbe conservarli, gli energumeni reagiscono con urla e spintoni. Danny osserva la scena impaurita, prima di riprendere il cammino. Alla fine del pomeriggio, il nome sul foglietto incontra il suo doppio in una targa dipinta all'angolo tra due strade di periferia. Una zona della città dove i palazzi sono meno fitti e le case di legno si alternano a quelle di mattoni. Il numero civico 25 corrisponde a un portone spalancato. Danny varca la soglia e si ritrova in un cortile popolato da gatti, pozzanghere, biciclette e panni stesi. Le va incontro una donna con una tinozza in braccio. «Buongiorno, mi chiamo Danny. Cerco Leonid Volokh». La donna rimane a bocca aperta. «Volokh? Accidenti, Volokh! È morto per caso?» «Non lo so, mi hanno detto che abitava qui». La donna posa la tinozza, quasi che il peso le impedisca di riflettere. «Ci abitava 20 anni fa, me lo ricordo, era una ragazzina. Dopo che se n'è andato, l'appartamento è rimasto vuoto per un bel po', poi è venuta a starci un'altra famiglia». L'aria delusa e smarrita di Danny muove a compassione. «Seguitemi, prego», dice la donna. Tre piani di scale sgangherate, sature di odori di cibo e sigarette. Oltre una porta grigia, si ritrovano in un corridoio corto e in penombra. La corsa di un bimbo lo attraversa, fino alla sottana della madre. «Cosa si mangia?» «Zitto!» ordina la donna. «Non è ancora ora di cena!» Al centro della stanza, in mezzo a quattro sedie, un baule fa da tavolino. La donna lo indica. «Quello l'hanno spedito a nome suo, una decina d'anni fa. Me lo ricordo perché ero incinta del mio secondo. Ero già caposcala. Sono andata con mio marito a ritirarlo alla dogana giù al porto. Per un po' l'ho conservato in cantina. Pensavo che qualcuno veniva a prenderselo. Poi invece che farlo ammuffire l'ho portato su. Le cose che c'erano dentro le abbiamo usate. Vestiti, una vecchia coperta. Sapete, mi sono nati 3 figli. Ah, poi c'erano dei libri. Sono lì, sullo scaffale». Danny va alla parete e osserva i volumi. Alcuni sono rilegati, con la copertina rigida, altri poco più che fogli cuciti assieme. Una decina in tutto. Li sfila uno alla volta, sfogliando rapida le prime pagine. «La madre», di Maxim Gorky. «I primi uomini sulla luna», di Wells. «Stella rossa», di Bogdanov. Una scritta a mano, nel frontespizio dell'ultimo, attira l'attenzione. «Per Leonid», c'è scritto, ma gli svolazzi che seguono sono incomprensibili. «Questo l'ho letto», interviene la donna, con una punta d'orgoglio. «È divertente. Parla di un uomo che va su Marte e ci trova il socialismo». Danny gira il frontespizio con delicatezza, come se d'improvviso la carta fosse più preziosa. Esamina il titolo e il nome dell'autore. Lo confronta con la firma in fondo alla dedica e si convince che sia di suo pugno. Al margine basso del foglio è stampato un numero. 1908. Volta pagina e si sofferma sulle prime parole. Prologo. Lettera dal dottor Werner a Mirsky. Caro compagno Mirsky, ti spedisco gli appunti di Leonid. Vuole che siano pubblicati e tu, da uomo di lettere, puoi occupartene meglio di me. Al centro della pagina successiva, in caratteri maiuscoli, c'è stampata una riga soltanto. Il manoscritto di Leonid. Apre il libro a caso, più volte, legge e rilegge alcune frasi. La mia perdita di peso ora è più evidente e la sensazione di leggerezza, accompagnata da una vaga instabilità, aveva smesso di essere piacevole. Ci sedemmo di fronte alla finestra. La terra appariva lontana, simile a una gigantesca falce. L'intero Atlantico e il vecchio mondo erano avvolti nell'oscurità. L'unica ragione che mi faceva indovinare che fossero là era che la parte invisibile del pianeta eclissava le stelle, disegnando un frammento vuoto di cielo nero. La voce della donna interrompe la lettura. «Prendetelo pure!» Danny richiude il libro e accarezza la copertina. Nel disegno, un uomo col cappello ritratto di schiena regge sulla spalla un maglio da fonderia. Davanti a lui, alta nel cielo, una stella rossa in onda di raggi il profilo di una città industriale. Sull'angolo destro e sinistro, due cartigli propongono il solito motto: «Proletari di tutti i paesi, unitevi!» «Sai dirmi dove potrei trovare l'autore di questo libro?» «Bogdanov?» La donna stringe le labbra, poi le schiude. «Mi pare di aver letto sulla Pravda tempo fa che dirige un centro medico, a Mosca, dove curano le malattie del sangue». Fuori dalla finestra, il sole è sceso dietro i palazzi. «Grazie, lo tengo», dice Danny, col libro sotto braccio. «Hai detto che c'era anche una coperta?» La caposcala la scruta dalla testa ai piedi. «Ce l'avete un posto dove dormire?» Nessuna risposta. La donna sospira e sparisce nella stanza accanto per poi tornare con la coperta. Il panno di lana infeltrita passa di mano. «Per questa notte potete dormire nel sottoscala, ma domattina presto ve ne dovete andare». Per le strade Danny ha visto molte persone sdraiate o sedute su teli come quello. Alcuni ci dormono, altri li usano per esporre ortaggi, frutta, biscotti da vendere al dettaglio. Gente che non sembra avere casa né lavoro. Come mai, se la rivoluzione è già venuta? Archivia la domanda tra le tante che dovrà rivolgere a Leonid, se mai lo troverà. Nel frattempo, anche lei passerà sopra un pezzo di stoffa la sua prima notte a Leningrado. Poi dovrà trovare un passaggio per Mosca.